scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un altro degli appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un cantante italiano da esportazione. È nato a Catania nel 1971. Figlio d'arte, a 12 anni inizia come corista in chiesa, poi comincia a fare tanta gavetta in giro per l'Italia. Turnista nelle sale di registrazione, dal 1988 comincia a fare da spalla a celebri big dell'epoca, come Ray Charles. La svolta arriva nel 2004 con This Is What You Are. Il singolo arriva a sorpresa a BBC One e lui comincia a essere conosciuto in tutta Europa. Nel 2006 esce il suo primo album, Handful of Soul, doppio platino, che sarà seguito da I Love You More, If, Yes You, Due, Sun e le compilation natalizie Mario Christmas e A Very Special Mario Christmas. Il 10 aprile 2015 entra in rotazione radiofonica Love is a Temple, primo singolo che anticipa l'uscita del nuovo album di inediti uscito in maggio e un tour estero italiano. Lui è Mario Biondi e vuole sempre andare oltre, come il suo album che si intitola Beyond. Perché ho voluto guardare oltre, al di là di quello che ho fatto finora, e ho cercato di esprimerlo insieme, coadiuvato poi da questi due ragazzacci che sono Max Greco e David Florio, e cercando di realizzare appunto qualcosa che potesse andare al di là di quello che ho già fatto, e sono contento. Poi ovviamente Il mio umore è variabile, cioè sono momenti in cui dico sono super contento, momenti in cui direi vorrei ricominciare, rifare, e poi ripartire, poi ripartire di nuovo. Ma per fortuna insomma poi ci sono i contratti, gli obblighi di consegna dei master e tutto il resto, che va bene, ti obbligano a dire no, va bene così, va bene. Ci sono tanti stili, tante ispirazioni, il soul, il suono Motown, il jazz, persino il reggae. Come mai ti sei fatto tentare un po' da tutto e come hai trovato una coesione? Sì, il fatto di trovare un filo conduttore è stato un po' anche un mio pensiero. Però poi la musica è musica, si dà ragione da sola. Avevo un po' paura, per esempio, di Heart of Stone, no? Che è stata arrangiata dai Dub Kings. Mi sono chiesto, ma riusciremo a fare coincidere i sound? A me il risultato non dispiace, poi sono sempre pronto ad accettare le critiche, che siano costruttive, però critiche poco costruttive non mi servono. I used to hang with the fellas, watch them girls as they go. I changed them all like the weather, never let me get close. Tell me how the hell did you get me like that? I used to think love was one big trap. I didn't believe in a perfect match, perfect match. But now you call me, I call right back. Yeah, I admit, girl, you got me like that. I didn't believe in a perfect match, perfect match, perfect match. Quando ascolti questo album già inevitabilmente te lo immagini live, lo hai riconosciuto che anche tu suonandolo pensavi già al palco, è una dimensione importantissima. Sì, beh, per me è fondamentale, quindi mentre lo facevamo, mentre eravamo in studio a immaginarlo, lo immaginavamo già con l'organico, con chi l'avremmo potuto fare, con quanti elementi sul palco, e naturalmente è stato anche quello una sorta di filo conduttore negli arrangiamenti e quindi nella realizzazione dei brani. Due pubblici possibili, il pubblico internazionale e il pubblico dei ragazzi. Tu li hai menzionati nell'incontro che hai avuto con la stampa, perché mi sembra che ci sia molta attenzione a queste dimensioni. Sì, naturalmente se fai musica e vuoi, hai mire espansionistiche, cioè, cerchi di essere leggibile per molte più persone, cerchi di essere disponibile al dialogo con molte più persone. I ragazzi, devo dire, ecco, già da Handful of Soul ho uno zoccolo duro fatto da giovani virgulti che seguono la mia musica pedissequamente e amano addirittura il jazz. Adesso, visto che comunque sono anche un po' responsabilità mia sti ragazzi, no? Devo fargli sentire delle altre cose, non è che posso tenerli sempre a pane e jazz. E Beyond, gli dico: oh ragazzi, guardiamo al di là di questo jazz, guardiamo oltre tutto quello che abbiamo fatto finora e sentitevi un po' queste idee qua che ho buttato fuori, un po' particolari. E poi all'estero, insomma, all'estero, diciamo che il fil rouge, no? Come si dice, è sempre la mia voce, la vocalità, no? Che è quella che poi mi ha permesso di avvicinarmi a più persone e che mi permette di legare insomma questa amicizia. There's nothing that I can do. I've set my mind on you. The more they see you're not real, the more I believe I feel. I gotta reach out to you. I'll hold you someday, somehow. But when my love dreams come true, ooh, di capire se ti vuoi magari sperimentare anche con dei testi in italiano. A me ad esempio un Mario Biondi a Sanremo divertirebbe tantissimo. Anche a me, sì, io non mi sono mai ritirato davanti a questo genere di inviti o di idee. Sicuramente dovrei impegnarmi ad hoc, no, per fare una cosa precisa, come tutto quello che ho fatto fino ad oggi. Diciamo, non posso buttarlo lì a caso e soprattutto cantare in lingua madre italiana è una bella sfida, perché poi sai, secondo me è una cosa un po' italiana, abbiamo questa mentalità di andare per luoghi comuni. Lui l'ho sempre visto vestito così, non starebbe mai bene vestito in quell'altra maniera. Poi magari questo si cambia di abito, lo vedi e sta bene. Però dice sì, va bene, però si vede che non è a suo. Cioè, dobbiamo sempre trovare questa pecchettina negativa. E io mi rompo le scatole a sentire le stronze. Stupido. Porca miseria. Cazzo, è che. Basta, voglio dire. No, mi piacerebbe sperimentarmi, ma non essere necessariamente sotto la lente di ingrandimento. Cioè, siamo buoni con noi stessi, siate buoni con voi stessi soprattutto, perché se siete buoni con voi stessi sarete buoni anche col prossimo. Se sarete buoni col prossimo, la vostra anima si arricchirà. I've been feeling, I've been feeling, I've been feeling like you miss me around. I've been hurting, I've been hurting, I've been hurting, but there's no way out. I've been hurting, but there's no way out. I've been reeling, I've been reeling, I've been reeling since the day you left. Now I'm wondering, I'm wondering, I'm wondering how you've no regrets. I'm wondering how you've no regrets. I'm wondering how you've no regrets. You got a heart of stone. You got a heart that feels so cold. Still I'm not letting go. I'm just letting you know. You got a heart of stone. citare Sanremo a questo punto, però ci mancherebbe solo Festival Bar, perché dopo due album Christmas ci starebbe benissimo un Festival Bar per questo album. C'è un po' d'estate qua. Ma c'è ancora il Festival Bar? Non c'è più il Festival Bar, non c'è. Però io ho fatto parte dell'ultimo. Sono riuscito a toccare questo grande colosso del Festival Bar. Si respira molta estate in alcuni brani. Sì, poi abbiamo il reggae alla fine che non lo so perché, ma quando lo ascolto vedo le spiagge, sono in Riviera Romagnola, where does the money go, where does the money go? E la gente là che beve qualcosa di fruttato e balla e ride. Come è stata l'esperienza di far fare i cori a tua figlia? Perché abbiamo scoperto questa curiosità, una cosa molto carina, molto dolce, bella. Ma mia figlia è un miracolino, io la amo profondamente, naturalmente, penso come ogni padre può amare la propria figlia. Ed è una ragazza molto, molto brava, perché riesce tranquillamente a seguire le indicazioni che le vengono date, no? E i cori li ho fatti subito, buona la prima, senza perdere troppo tempo. Non ho dovuto fare 200 sovraincisioni o no, le ha cantate. Se andasse così bene a fare i cori come va a scuola, sarebbe meglio. Anche perché tu invece dei Jackson 5 potresti fare i Biondi 7, saresti a posto. Sarebbe mai bello. Sì, ma poi ho scoperto anche che mio figlio, che all'inizio, Marzio, che è il più grande, che all'inizio voleva suonare la batteria e la suonicchia, insomma, no? Ha fatto anche un po' di lezioni, ha imparato a fare un po'. Ma poi l'ho sentito cantare l'altro giorno in macchina e canta veramente bene, c'è questo vocione, anche lui c'è questo vocione da mostro, però molto aggraziato, bella voce. Ed è tutto per la puntata di oggi di Voci in Scena. Con noi c'era Mario Biondi. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.